della Repubblica Austriaca. Avevi visto quante volte sono cambiati poi i confini amministrativi, va bene, fra le due province. Il confine istituito nel 27, che però lasciava la Bassa Regina, la provincia di Trento, poi il confine amministrativo è spostato nel 48, avevi visto il confine della diocesi spostato nel 60, nel 64. E tante volte vi ho parlato anche della storia della città di Bolzano, una storia particolare di una città che in 40 anni passa da 20.000 a 100.000 abitanti, quindi cresce di 5 volte. A parte le città di fondazione, proprio quelle create negli anni 20 e negli anni 30 dal fascismo, ecco, proprio create ex novo, no? A tavolino, no? Quando Lucio ha detto qui verrà fatta questa città, ecco, e poche altre città in Italia hanno avuto uno sviluppo di questo tipo in 100 anni, se ci pensate, no? Cioè 5 volte tanto, da 20.000 a 100.000. E cambiamento quantitativo, ma anche un cambiamento qualitativo, poi, no? È diventata anche una città capoluogo di provincia e quindi hanno fatto certe strutture a partire dal 1927. La struttura di cui parleremo questa sera era una struttura che esisteva già a partire dall'Ottocento e dà una storia simile al Museumsverein, no? Il Musikverein è stato fondato a Bolzano nel 1855, era un'organizzazione privata che viveva poi però anche di finanziamenti del comune. Aveva sede sotto i portici e poi negli anni 20 viene municipalizzata, ecco, quindi municipalizzare significava in qualche modo anche italianizzare, no? Quindi ad un certo punto nel 1926 il prefetto De Stefanini municipalizza l'associazione intitolandolo a Gioachino Rossini. Quindi vedete un po' come il discorso anche della odonomastica di cui vi ho parlato l'altra volta, no? Cioè dare un nuovo nome significava anche riportare un discorso di identità nazionale. Quindi questa scuola musicale che si occupava della promozione della cultura musicale sia attraverso l'organizzazione di concerti sia attraverso una scuola musicale viene poi municipalizzata, quindi italianizzata, intitolata Gioachino Rossini nel 26. L'accordo era firmato dal presidente del Musikverein che si chiamava von Walter, probabilmente padre dell'attuale, ecco, nonno? Nonno? Beh, sì, nel 26 secondo me, ecco, Walter von Walter, ecco, e prevedeva la cessione dei beni della società, che consistevano quasi esclusivamente poi dopo negli strumenti musicali, in cambio di un credito che il comune poteva vantare di 20.000 lire. La commissione incaricata poi di dirigere questa nuova scuola musicale era formata dal conte Giuseppe Rota, dall'avvocato Arturo Knering, dell'ingegnere Luigi Oliva e dall'ingegnere Luigi Rebora. Questa scuola musicale diventa quindi un liceo musicale e viene chiamato il maestro Mario Mascagni, che era il direttore del liceo musicale di Udine, a dirigere questa nuova scuola. La sede del liceo, che stava sotto i portici, come dicevo prima, così come il Museumsverein, viene spostata in via Vintola negli anni 30 e negli anni 40 in piazza Domenicana, nell'attuale sede. E gli iscritti aumentano, passano dai 207 dell'anno scolastico 28-29 ai 250 del 37-38. E stando a una relazione di Guglielmo Barbrane, in un articolo pubblicato sull'archivio per l'Alto Adige, intitolato I 10 anni del liceo musicale di Bolzano, e di questi iscritti 3/5 erano alloglotti, così come venivano definiti quelli che parlavano un'altra lingua. E il maestro Mascagni era il direttore di questo, Mario Mascagni, il padre di Andrea Mascagni, era il direttore di questo liceo. Nel 1932 il liceo musicale viene pareggiato ai conservatori di musica statali, accogliendo la proposta avanzata già nel 1927 da Mascagni. Nel 1932 giunge a Bolzano, in qualità di insegnante del liceo musicale, Guglielmo Barblan, che era un attivissimo organizzatore culturale, giornalista, collaboratore della provincia di Bolzano, che è uscito dal 1927 al 1943. Collaboratore di Tesa Auguste, la rivista culturale uscita dal 39 al 43 e anche addetto stampa del Fascio Bolzanino. Nel 1940 il liceo musicale di Bolzano diventa un conservatorio e viene intitolato a Claudio Monteverdi. Queste sono le date, così, i punti di riferimento così nell'arco del tempo. Adesso come procediamo? Andiamo avanti a pezzi musicali e a relazioni oppure. Adesso dico due parole, poi suona il trio, Perfetto. ecco, e dopo il dottor De Salvo mi farà delle domande, se vuole farle anche lei, ma io sono qui non come esperto, intanto non sono uno storiografo, qualche volta musicologo se mi riusciva, ma io sono un cronista, Quindi io ho fatto una raccolta di scritti, di cronaca, di vissuto, perché io credo molto nel vissuto, cioè raccontare gli episodi che si sono vissuti anche in prima persona è molto importante. Quindi noi evadiamo un po' da quello che è il tema, perché io avevo detto che per parlare la storia del conservatorio bisogna venire una sera alle 9 e si finisce all'1, perché ci vogliono 3 generazioni di persone che siano veramente all'altezza di fare questa cosa. Ho proposto come primo personaggio, anche se è ancora giovane per sua fortuna, Tonini, che è uno storico, è anche un cronista, è anche molto bravo. Quindi io mi ero proposto come conduttore, dico poi si fa venire magari Andrea Bambace, si fa venire Vea Carpio, il direttore pro tempore, e qualcun altro. E si parla veramente del conservatorio. Io posso parlare delle mie esperienze. Intanto direi solo per iniziare, poi lasciamo lo spazio alla musica perché teniamo conto della famosa operina buffa di Salieri, prima la musica, poi le parole, e quindi lasciamo suonare loro. Ma vorrei dire che la nostra storia che è passione, io qui vorrei dire la mia storia che è passione, ma non parlo di cose strettamente personali. Magari Bambaccia mi guarderà un po' sorridendo, chiedo scusa perché guardo gli amici. La mia storia personale, perché io ho studiato a Bolzano, o privatamente o in conservatorio secondo le materie, dagli anni 50, insomma, ecco. E il primo esame l'ho fatto nel 49. Quindi ho fatto questa esperienza di allievo per 5-6 anni con il mio far da pendolare, come tanti altri. E si andava, io venivo da Riva, qualcuno veniva da Rovereto, ci si trovava in treno accelerato e partiva alle 12:20 da Rovereto, arrivava alle 2 meno 5 a Bolzano, e si scendeva, si andava a fare le proprie lezioni poi a casa del maestro Montanari, che mi faceva privatamente, e quindi poi si riprendeva il treno la sera, non senza essere passati per mia madre a prendergli dello specchio, delle cose che le piacevano molto, e quindi a rischio di perdere anche il treno, che però era quasi sempre in ritardo anche di 2 ore, quello che veniva da Monaco. Quindi la mia storia è questa, che io mi sono affezionato a questa città come studente. Poi ho avuto la fortuna di essere seguito sempre da Montanari, e quindi a un certo punto ho avuto la prima nomina di insegnante, anzi di bibliotecario, proprio a Bolzano. Ci sono stato una quindicina d'anni, poi per delle vicende curiose, a Riva del Garda, il mio paese, hanno istituito una sezione di conservatorio che non poteva che dipendere dal conservatorio di Bolzano, perché Trento era ancora liceo musicale, Verona e Brescia non avevano l'amministrazione ancora attrezzata al punto che il ministero esigeva, e pertanto il conservatorio più vicino era Bolzano. Lì ci fu una grande disputa le rappresentanze di lingua tedesca, che fra l'altro per il conservatore erano il dottor Zuchenthaler, presidente, e il dottor Amon, vicepresidente. Era molto difficile fare uno scherzo a loro, anche se io lo proposi, dissi al direttore di allora, a Kambisa, era il 70, dissi, l'ho anche scritto, quindi lo posso anche dire perché è scritto in una memoria, e dice: siamo in tre, dico io, lei e Zaniboli, votiamo a favore. Si dice: lei mette in minoranza, ma fa saltare tutto il progetto del pacchetto che c'è, eccetera. Dice: scherzerà. Ma no, scherzo, io ho detto una battuta, dico, perché se ancora vale maggioranza e minoranza, possiamo farcela. Viceversa, questo non è successo invece grazie a Kambisa e a alcuni deputati, sia di lingua tedesca, Mitterdorfer, sia di lingua italiana, Ballardini, e anche Piccoli, il senatore Spagnolli, si sono dati molto da fare, quindi per il versante evidentemente Trentino, Riva del Garda. E il conservatorio, che si doveva aprire il 1° di ottobre del 70, fu aperto il 23 novembre del 70, perché fu trovato un accordo con una giusta anche risoluzione per la parte di lingua tedesca, cioè la iscrizione nell'organico del conservatorio degli insegnamenti che già da tempo erano impartiti in lingua tedesca da personale di madrelingua tedesca. Quindi in sostanza non c'è stata neanche una forma di ricatto, ma una forma di do ut des, perché la Volkspartei specialmente non voleva addentellati fuori provincia. Dice: cosa andiamo in Trentino a fare noi? Noi siamo qui, e infatti Io direi che il primo giorno che abbiamo, Bambacci non era ancora in servizio, è venuto qualche giorno dopo, arriva del Garda, la sua prima nomina, la sua prima cattedra, se non sbaglio, no? Ecco, lavoraccio che ho dovuto fare perché il conservatorio ha detto noi non ci mettiamo niente, arrangiatevi. Allora ho dovuto mettere insieme due pianoforti e poi pregare i due insegnanti, non c'era ancora Bambacci, ma comunque avrei pregato anche lui, di fare un verbale positivo. Un pianoforte era il verticale che usavano l'estate sulla terrazza della spiaggia degli olivi, ora esedra delle rose, ora Tiffany, eccetera, non so più che cosa. Che l'inverno non sapevano dove metterlo e lo prestavano alla scuola musicale, che non aveva altri pianoforti. E l'altro, un vecchio cassone, che è spassosissimo leggere la relazione che ha fatto Giavina, dice, me lo ordina lei, sì, glielo ordino. Di modo che la sera del 23 novembre ho potuto telefonare al direttore che tutte le cose erano a posto. Mancava l'appartamento del bidello, mancavano le lavagne, mancavano dei banchi, eccetera, qui e lì. Allora, voglio dire, a un certo punto, avendo i genitori a Riva del Garda, ma però non avendo la carica, avevo la carica di vice direttore, ma con l'obbligo di stare tutti i giorni a Bolzano. Allora era molto difficile questo, ecco, perché come si faceva? Andavo ogni tanto così. Fin tanto che poi ebbi in eredità una casetta in cui mi potevo sistemare e lì però la cosa è stata molto complessa, ma adesso non lo dico come ho fatto da Bolzano a arrivare a Riva del Garda con una cattedra che non esisteva di storia della musica, perché la sezione di Riva era per decisione di Cambissa ferma al quinto corso, quindi sto a raccontare le cose. Ho dovuto dimettermi dai ruoli del bibliotecario, insegnante di storia della musica, per assumere un posto di supplente per entrare dentro dalla finestra, per non potendo. È entrato dalla porta come vice direttore, mi tocca entrare come insegnante dalla finestra. E vabbè, insomma, comunque si fa anche questo, rimettendoci 5 anni di anzianità di carriera, comunque, no? E per chi è stato insegnante sa cosa vuol dire anche quello. Ecco, dopodiché mi sono stufato di Riva e ho detto io torno a Bolzano. E quindi ho fatto la mia passione è questa, lo posso dire chiaramente perché la mia figlia e anche mia moglie lo sanno. Io ogni notte o quasi sempre sognavo Bolzano, a Riva del Garda. Io da quando sono a Caldaro, perché qui non abbiamo trovato trasferendoci casa, ogni notte non sogno mai Riva del Garda. Ecco. Quindi mi spiace per gli amici di Riva, comunque io li ho messo insieme la sezione, li avevo messo insieme prima la scuola musicale. Allora, adesso, siccome parliamo di scuola musicale e quindi di istituto, direi che il primo omaggio da fare è al grande musicista settecentesco a cui è intitolato l'Istituto Musicale Vivaldi. Quindi i nostri ragazzi, comprendo anche mia figlia che è ragazza, faranno due tempi di un concerto di Vivaldi. Quindi prima la musica, che è più importante, e non le parole. E poi, fra l'altro, nel motto dell'altro giorno dei servizi sociali diceva esistono anche le parole o qualche cosa del genere Elena, no? Che sono anche le parole, cioè per dire che non ci sono soltanto le parole, ecco, questo è il motto, quindi chiedo scusa del bisticcio. Bisogna chiudere il microfono adesso forse se no si fa troppo confusione. Il dottor De Salvo, che è uno dei responsabili adesso di meno perché ha avuto l'incarico di storia della musica al Conservatorio di Trento, era uno dei responsabili del Centro Trevi, il quale mi farà delle domande che non so su che cosa vertano, no? Perché il bello è della sorpresa. A me far la storia del Conservatorio me l'ha detto il dottor delle donne a metà dicembre, ero a letto alle 2:30 che facevo il meritato riposo di un disgraziato sacco di culo che fa, e mia moglie mi passa l'apparecchio e dice lei si segna il 4 giugno alle ore 18 viene a fare la storia del conservatorio. Allora mi sono alzato, mi sono seduto e dico ma guardi che io non sono un tecnico, uno storiografo del conservatorio, so delle cose, ho fatto gli annali peraltro. Gli annali nel 1990 per il 50esimo, se non sbaglio, della scuola, no? Per il 50esimo, e mi sono fatto tutto da solo, tutto l'elenco degli allievi, eccetera, perché il dottor Stubner, allora direttore, mi disse: se lei vuole commemorare il conservatorio per i 50 anni, se lo faccia. Questo lo posso dire, non mi vergogno di dirlo. questo mi è costato un occhio, ma è vero, quest'occhio qui ha cominciato nel 90 a scantinare, anche perché prima avevo fatto un lavoraccio dedicato al mio maestro di composizione Renato Dionisi, e quindi come posso dire, adesso ho perso il filo ma non l'Arianna, e quindi l'importante è quello, no? Si può andare avanti anche essendosi dimenticati di qualche cosa. Ho fatto questa considerazione. Sì, gli annali che sono qui in fotocopia, il libro c'è, ma comunque si può fare qualche fotocopia, e ci sono distribuibili a tutti, ancora per giovedì li faccio preparare se la dottoressa è d'accordo, e così vedono per esempio la spasatura, perché il conservatorio doveva nascere, è nato nel 40, il decreto firmato Mussolini è del 39, però diceva una clausola: diventerà effettivo conservatorio alla data in cui saranno stati stipulati gli accordi economici di finanziamento del comune, della cassa di risparmio e di un altro ente che adesso chiedo scusa non mi ricordo. E questo avvenne nel corso dei primi mesi del 40, sicché l'apertura del 40 fu il 16 ottobre, allora era conservatorio. Però è curioso notare che nei programmi dei saggi, per esempio del 39, c'è già scritto conservatorio Rossini, magari, no? Perché si chiamava ancora Rossini. Allora timidamente cominciavano a far entrare nella mente delle persone il fatto che fosse un conservatorio, perché bisogna stare attenti per uno che non sa cos'è un conservatorio. I conservatori erano degli ospedali, no? Io ci starei benissimo lì adesso, per esempio. Erano degli ospedali a Napoli e Venezia nel corso del Settecento. Addirittura a Venezia il famoso il laboratorio in cui agiva Vivaldi, poi bisognerebbe leggere tutta la memoria del Museo Correr per sapere come agisse, era istruttore di 300 ragazze ricoverate nell'ospedale della Pietà, che era annesso alla chiesa della Pietà, che si trova poco distante da Palazzo Ducale sulla riva degli Schiavoni. E quindi lasciamo stare adesso questi qui degli ospedali, perché questo, anche se durante la guerra, quando ci fu lo sgombero da parte dei nazisti dell'ospedale e del conservatorio, il conservatorio, se non sbaglio, chi c'era qui, era un ospedale, o era stato destinato a ospedale militare da parte delle truppe d'occupazione, no? E quindi si è dovuto poi aspettare. E allora, anche cosa per esempio curiosa, il Duce ha detto: i diplomi che date nel 39, nel 40, sono diplomi intestati Regio Conservatorio, eccetera, il che non sarebbe stato regolare quando invece l'attività del conservatorio iniziava il 16 ottobre. Ecco, e quindi io adesso dovrei pregare De Salvo che mi dica qualche cosa di questo libro, che è una raccolta di scritti in ricordo di morti, tanti morti. Tantissimi. Mia moglie mi ha detto, quando ha visto la prima volta il libro, dice: troppi morti. Dico: ma io ho lavorato con delle persone che adesso sono morte, e quindi cosa devo scrivere? E poi dei vivi è sempre difficile parlare, dei morti è più facile, perché si può anche dire male, quello non può fare niente, è un colpo basso, no? Però non si sa mai. Dir male, ma cose giuste, può darsi che anche uno vivendo abbia fatto delle cose sbagliate, e quindi è giusto che le dica il commemoratore. Ecco. Questo primo capitolo, che è appunto tutto di morti, si conclude però con un racconto della vita di quattro giovani musicologi negli anni 60, dei quali tre sono morti e l'unico rimasto sono io. Quindi praticamente il primo capitolo di tutti i morti spetta a me. Mi viene in mente il famoso film con Spencer Tracy, La settima croce, no? Che poi però lui non è mai stata adoperata. Ecco. Allora, adesso De Salvo mi fa le domande relative alle anni 30. A sorpresa, se no troppo potremmo esserci messi d'accordo. Allora, innanzitutto ho il piacere di stare qui accanto al professor Dardo, professore o maestro Dardo, insomma, è tutte e due, quindi a volte lo chiamo maestro, a volte professore, comunque un maestro di vita, proprio perché lui è stato docente di tantissimi studiosi, studenti, è uno dei più grandi musicologi italiani. A un certo punto il professor Dardo ha deciso di dedicarsi alla famiglia e quindi ha messo da parte i suoi studi musicologici, però ha lasciato un'impronta talmente forte che noi siamo tutti qui per ricordarlo con grande affetto. Quindi per me... No, no, infatti parlo... siamo qui proprio... Beh, ma si ricorda se... ancora meglio, quindi vuol dire una persona talmente importante che... Ecco, no. Ho avuto il piacere di leggere questi appunti, racconti, queste note biografiche di questo lavoro. E innanzitutto chiederei al professore la scelta del titolo, di questo titolo. Viene spiegato un minimo nella premessa, ma forse i nostri ascoltatori non lo sanno. Il sottotitolo è un invito a un incontro però diciamo di carattere conviviale, Musical Banquet, cioè è il titolo di una raccolta. Siccome io ho fatto gli studi, compiuto la tesi universitaria su un liutista e sono stato un buon conoscitore, senza sapere neanche come si prende in mano un liuto, sono diventato in Italia uno dei più esperti della storia del liuto, della letteratura del liuto e dei liutisti. E questo è un libro di canti con accompagnamento di liuto di Robert Dowland, che ha questo titolo, Un banchetto musicale. E ho creduto che questa fosse l'occasione per dire invito a un incontro con maestri, colleghi, compagni di studi, cori, sodalizi vari, studenti e qualche amico. Teniamo presente che Robert Dowland era figlio di John Dowland, che adesso è diventato di moda perché un certo Sting l'ha tirato fuori dal cassetto e, facendo soldi per sé, perché il povero Dowland è morto da 500 anni o quasi, non li può fare, e sono le cose che a me danno fastidio, perché dico, se andavate 30 anni fa in una sala di concerti a sentire le lacrime, il titolo latino lacrimae, no? Dico lacrimae perché per esempio il professor Novak diceva che si doveva dire lacrimae e non lacrime, era un latinista eccellente, il professor Novak, uno dei maggiori compositori cecoslovacchi, no? Jan Novak, no? E come diceva Magister, Regina, eccetera, pronunciava la tedesca, poi bisognava stare zitti perché lui ti attaccava un discorso in latino che era meglio scappare, perché sennò si faceva una figuraccia, ecco. E queste lacrime di Dowland si potevano sentire benissimo per la società dei concerti se avessero chiamato questi suonatori, fra virgolette, suonatori di strumenti antichi e cantori di canzoni antiche, insomma. Ecco, ma non è un fenomeno, anche Branduardi fa delle ricostruzioni di canzoni toscane e tanti altri che approfittano della ignoranza, dico, di tanta gente giovane, propinandoli queste cose che sono bellissime, ma che non sono fatte da loro, sono prese di sana pianta. Ecco, io anch'io stesso ho fatto una canzone nel 47 per il Carnevale di Arco, ho preso un valzer di fine 800 e ci ho inventato su delle parole, ho preso anche il primo premio, una cravatta. Ecco, vabbè, era qualche cosa, insomma, per quell'epoca, no? Ecco, sì. Prego, stia in carità. Leggo nella premessa un'espressione che mi è piaciuta molto. Il professore raccoglie in questi scritti, fa ricordare anche storie, fra virgolette, che non fanno storia con la S maiuscola. Ora, dicevo prima che il professore ha pubblicato decine, centinaia di scritti, pubblicazioni, testi musicologici, quindi di storia ne ha fatta tantissima. Quindi immagino per questo motivo lei ha detto, adesso voglio anche lasciare l'aspetto filologico musicale in cui devo fare scrivere un articolo e in fondo segnare la citazione, questo l'ho preso da qui, questo l'ho preso da lì, ma mi voglio anche divertire e andare sull'onda dei ricordi. In realtà lei però di fatto ha costruito, ci lascia delle testimonianze preziosissime. Lei per esempio nella prima parte, questa storia è grosso modo, si sviluppa in quattro parti con delle appendici. Nella prima parte abbiamo dei ricordi di personaggi famosi, famosissimi, meno famosi, anche ricordi di studenti, non solo di Bolzano, ma come diceva il professore, parlando anche di Riva del Garda, di questo rapporto, di tutta l'asse, io dico l'asse ferroviaria, che si sviluppa da Bolzano, parte da Bolzano, passa per Trento, Rovereto, Riva, piccola parentesi, a Riva del Garda e continua per Verona, perché molti degli insegnanti ovviamente provenivano da tantissime aree geografiche. insegnanti, colleghi, studenti, e ci sono addirittura racconti di incontri sui treni. Sul treno, il treno serviva per viaggiare ma anche per studiare, piccolo aneddoto, e poi lo continuo a lei. Per esempio, se vado a braccio, sul treno spesso si studiavano magari compiti come allievo che uno doveva fare per portare i professori, ma su quel treno si incontrava il professore che prendeva lo stesso treno e quello si accorgeva che lei stava facendo il compito, stava lavorando sul compito, era un problema, quindi bisognava un attimo evitare anche certi incontri nel momento sbagliato. Lei cita alcuni insegnanti, anche dice: se mi scopre il tal maestro mentre sto facendo i compiti all'ultimo momento non faccio bella figura, no? Ecco, quindi è tutto un racconto di questo tipo. Personaggi importanti sono personaggi di ovviamente di Bolzano, ma personaggi in Trentino. Lei ha citato forse prima, o anche citiamo qui nel libro, Silvio De Florian, Renato Dionisi, abbiamo visto c'è una pubblicazione anche qui fuori, e Monsignor Celestino Ecker, Federico Mompelli, Nunzio Montanari, Guglielmo Barblan, Andrea Mascagni, e ce ne sarebbero tantissimi di personaggi importanti. Di questa prima parte, cos'è che la parte che l'ha divertita di più? Ci sono cose particolari, perché è tutto divertente, però veramente citami, ecco, non so, le vengono in mente anche episodi curiosi, alcuni allievi tipo Dionisi che faceva degli scherzi a qualche insegnante, c'era veramente ci sono tutti, sì. Anche se, per modo di dire, Tonini dice che la storia non si fa con gli aneddoti ma con i fatti effettivi, no? Le cose che succedono effettivamente. Non so se sia qui, mi pare di no, perché lo conosco bene, essendo anche stato. Ha fatto tutte e due le cose, perché ha fatto la storia di fatti in tutta nelle centinaia di pubblicazioni che ha già. Ma in questo caso non è una visione personale, come se io mi specchiassi nel personaggio che ricordo in base alle esperienze che ho fatto con lui. O all'entusiasmo. Per esempio, io avevo dei miti: Montanari, Dionisi e Monsignor Ecker. Ecco, erano i miei tre miti. Delle isole Tremiti, no? E quindi su questi ho fatto dei lavori, ma per Dionisi, per esempio, nel 2000, quando ho fatto la prima versione, non ho fatto niente, perché il giorno che è morto, 25 agosto, io dico, l'ultimo scritto l'avevo fatto il 23 agosto, io dico, io l'ho retrodato di un po', per cui non mi tocca di commemorare e ricordare Dionisi in 448, che mi risultava difficile, tanto più che ho scritto 60 pagine su Dionisi nel 1990 per gli 80 e per l'ottantesimo compleanno, quindi dico, tanto può star buono. E l'altra figura che mi faceva paura era Mascagni, e di questo anche ho sventato il pericolo nel 2000, perché era ancora vivo. Nel 2004 è morto Mascagni, e io avevo fatto ormai una revisione del 2003 di questo libro, che è un libro fantasma, perché non esiste, è una copia, è qui, e una copia l'avrà De Salvo e basta, perché era scritto solo per i parenti e per qualche amico o anche critico, vedi Bambacci per esempio, infatti è molto critico, no? Nei confronti di questa cosa. Beh, poi sarebbe da interrogare lui perché è molto critico, però dovrebbe aver visto tutta la versione finale, ecco. Quindi non è che io parli di Barblan come insegnava, io parlo di Barblan come persona e come l'ho visto io, forse sbagliando. Non è che parli di Monsignor Ecker. Di Monsignor Ecker sì, perché l'ho scritto e l'ho trasferito pari pari dal libro che fu fatto con la mia redazione per il centenario della nascita di Monsignor Ecker a Taio. Qui abbiamo l'onore di avere il nipote, a volte per scherzo, di quel figlio di Monsignor Ecker, questa sera qui presente. Non è mai mancato a un mio intervento quando sa che si parla di Monsignor Ecker. L'insegnante che mi faceva più paura, ecco, per esempio, episodio che non ha niente a che vedere con la didattica, in certo senso sì, era quando io salivo a Rovereto e vedevo che Ecker saliva sul treno. Allora io cominciavo, mi spostavo da un vagone all'altro perché dovevo fare i compiti per la lezione che avevamo alle due. Se mi veniva lì ero rovinato. Allora l'ultima spiaggia era, prima di entrare in classe, maestro vado in bagno, e prendevo uno dei suoi esercizi fatti da lui, lo trascrivevo in fretta furia a matita e gli facevo vedere sta roba, e lui ancora, pur l'avrò copiato anche malamente magari il lavoro, no? però anche se l'avessi copiato giusto, lui trovava ancora da dire anche su se stesso, anche su di sé. Questo è un episodio molto curioso, ecco, di Monsignor Eckhart. Altre cose invece erano molto più piacevoli anche in treno, no? Basta vedere il racconto di Segata dei viaggi che facevano con Janes, che saliva mezzo lombardo, e De Florian, a Begala addirittura, a Verona, Mezzena, eccetera, eccetera. E qui c'è il dottor Uvietta, che fu anche fino all'ottavo anno allievo, se non sbaglio, del conservatorio. Al sesto, beh, arrotondiamo, era di tromba, quindi arriva al sesto il diploma, no? No, era allievo di violino e anche bravo, ma poi lui ha fatto un'altra scelta, no? E quindi siamo riconoscenti lo stesso per quello che ha fatto il conservatorio anche lui, perché c'è nei programmi dei saggi, ecco. E quindi vuol dire che anche lui, se veniva scelto, non era perché era per far numero, ma è perché era giusto che si esibisse magari in quartetto, che so io, non so, in complessi da camera, eccetera. E Montanari invece lo ricordo attraverso due lettere che ho scritto in occasione della morte per i giornali. Cioè non sono scritti originali, gli scritti originali sono, saranno su 30 che sono questi profili, queste visioni autobiografiche mie, dei miei maestri o delle persone che ho conosciuto, sono poche. Barblan l'ho fatto apposta, Lunelli ho fatto apposta per il libro, Feininger ho fatto apposta per il libro, Dionisi l'ho fatto apposta perché non c'era, ecco, e non era ancora morto per sua fortuna, e pochissimi altri. Quindi Montanari, anzi, ne ho dovuto togliere uno dei tre scritti su Montanari, perché è stato messo nel libro che abbiamo fatto con Andrea Bambace, scritto su Montanari, e quindi avevo paura che quelli della casa editrice sollevassero dei problemi sul fatto che non avevo diritto a riprodurre in un altro libro una cosa che era in esclusiva per loro. E un attimo ancora, De Salvo, poi le lascio la parola. Di Montanari, per esempio, quando abbiamo presentato il libro, l'intervistatrice della televisione mi ha chiesto che cosa ricorda di più del maestro Montanari, di tutto quello che ha vissuto insieme, perché abbiamo fatto anche 6 volumi di didattica e storia del pianoforte, per bene o male che vadano, sono 6 volumi, un lavoro di anni, 10 anni ci abbiamo messo. Poi abbiamo fatto delle edizioni di musica, anche clavicembalisti italiani, pezzi romantici italiani, eccetera, quindi un lavoro fatto insieme. E lui mi scriveva, specialmente gli ultimi 3 anni, io non sono che un povero pianista, come dire che io ero quello che doveva dirigere tutta la baracca, a parte che c'era la figlia Adriana che si prestava molto a collaborare anche lei. E quindi di Montanari questa è rimasta di stucco quando le ho detto, quando per l'ultima volta che l'ho visto a casa si è alzato dal letto, non l'avevo mai visto a letto, ha preso il bastone e mi ha accompagnato con la consueta cordialità, gentilezza e affetto alla porta. Questo è quello che mi ha colpito di più. Dopo l'ho visto 2 volte all'ospedale, ma era in coma, quindi non ho più niente da fare. Così come Dionisi, quando ha avuto un incidente a Rovereto la notte, piccolo incidente il giorno dopo sull'Adige, no? È morto dopo 15 giorni, aveva l'abitudine, non aveva abat-jour, quindi lui doveva spegnere la luce all'ingresso della camera, poi indovinare il letto. E una volta gli è andata male e si è spaccato un braccio. Un'altra volta non so che cosa, e la terza volta purtroppo è caduto e si è rotto 2 vertebre cervicali. Non sappiamo più cosa fare, insomma. A un certo punto è andato a Verona, Rovereto, Trento, continuavano a girovagare. Gli ultimi 2 giorni di vita mi telefona Andreoli, che era uno dei suoi allievi, dice: guarda che è a Bolzano. E ora sono venuto giù 2 volte, ma era uno strazio vedere questo uomo a letto con i tiranti, non so come si chiamano quelle cose, dottor Uvietta, impiccato lì in questo letto. Era una cosa terribile, ecco. E aiuto, mai ho sentito Dionisi in 50 anni di frequenza chiedere aiuto, chiedere qualche cosa, era sempre lui che dava. E quindi è una cosa impressionante, ecco, di questa cosa per me mi ha colpito moltissimo. Ecco, per modo di dire, queste cose diremo, ecco il riflesso, oddio, anche quando andavamo al mare veniva insieme anche lui, mi voleva far uscire col pattino, ma io non ero capace di nuotare. Ci andiamo fuori, perché lui invece aveva fatto un corso di nuoto su suggerimento del dottor Regele, il vecchio, che stava in via Sparcasse, no? Sparcasse. E ci sono andato anch'io, e dice lei, mia madre, per i piedi, dice, per curare le dita, le do un sacchetto, gli ha dato i sassi del Talvera. A me dice si faccia un cartone con l'uovo sbattuto e se lo metta sul polso che le passa tutto. Quando ho visto Montanari, ma che cartone con l'uovo sbattuto, dice, con la chiara d'uovo, dice, suona che così ti passa il male, no? E aveva ragione anche, no? Nella giusta dose però, perché se si fa suonare troppo uno può anche invece crollare e massacrarsi il braccio. Ecco, quindi questi sono gli episodi che colpiscono, perché sono uomini, ecco, anche i miei miti, Ecker, Montanari e Dionisi diventano uomini anche loro. Come finisce lo scritto? Che poi io non ho potuto, era il discorso che dovevo fare per i 90 anni di Dionisi, ma impegnato a Rovereto, impegnato a dirigere la tavola rotonda, io sono rimasto il quadrato e non ho potuto fare niente, perché dovevo dire, è arrivato un telegramma di Mezzena, continui pure maestro, poi è arrivato un fax di Corno, poi è arrivato il fax di Uvieta, che l'ho pubblicato perché non sono sicuro che gliel'hanno fatto leggere, è nel libro, il fax di Uvieta, dove in una pagina descrive la sua esperienza e la grandezza di questo maestro, che sapeva mettere di fronte a delle problematiche notevoli nello studio della composizione. Questo l'ho dovuto mettere perché ho detto, Marco, dico, guarda, che io l'ho dato... Sì, Marco è il figlio del dottor Uvieta, illustre musicologo, amico di De Salvo e docente all'Università di Trento, oltre che uno dei massimi collaboratori di Casa Ricordi e anche perfezionatosi dopo gli studi con Dionisi e con Luciano Berio all'Accademia di Santa Cecilia. Quindi abbiamo una buona compagnia, ecco, anche di, io sono fortunato perché ho degli allievi, lui di Domenico Bartolucci addirittura. Il maestro, come si chiama, emerito della Cappella Sistina, maestro direttore perpetuo, ecco. È un libro molto interessante di 850 pagine, se non sbaglio, più del mio, però di formato doppio, perché lui è in quarto, il mio è in sedicesimo, e quindi il mio è un bicchierino di vino della portata di una grappina. E il suo è un bottiglione che non vi dico, insomma. E è commovente dire che perfino ringrazia nei ringraziamenti De Salvo perfino il padre, che è andato anche a una buona età, no? Il padre è andato a fare lo spoglio dell'osservatore romano per vedere che cosa succedeva nella Cappella Sistina nel Novecento, cioè nel secolo scorso, no? E ha fatto un magnifico lavoro che è stato presentato a Bolzano, a Trento, a Rovereto e anche a Roma addirittura, no? Perché era commissionato dalla Fondazione Palestrina e fa parte del settimo volume della collana della storia della Cappella Pontificia. Quindi siamo di fronte a delle gente che a me fa ridere. È vero che noi diciamo sempre che non è la quantità, quando io ero a giudicare candidati insegnanti, non è la quantità che conta, è la qualità. Però insomma, se uno fa un libro di 800 pagine di qualità e uno fa un articolo di 3 pagine di qualità, bisogna stare attenti, perché bisogna leggerlo bene, insomma, il libro, e approfondire se effettivamente la qualità, non dico di De Salvo, dico in generale. Per esempio, come io ho fatto l'idoneità contribuito all'idoneità di un professore che aspirava a insegnare storia della musica, poi non è venuto però, a Bolzano, torno in stazione perché ero a Riva a prendere il treno, prendo il Radio Corriere, c'era una pagina intera scritta da lui sul Radio Corriere, dico, indovinà, dico, perché aveva scritto solo di Ravel, però quello scritto era molto bello, e io per quel Ravel gli ho proposto il massimo dei voti, e era un solo articolo, per dire che quindi non è la quantità, come diceva anche il buon Gallico, ma anche la qualità che conta. Ma questo è il problema di De Salvo, è che la quantità è pari alla qualità o viceversa. Ecco, adesso lei la ringrazio perché adesso dobbiamo andare avanti. Sì, anche perché è più bello parlare di lei che di... No, ecco, lei, farei una piccola domanda, poi uno stacco musicale magari, sì. Dato che abbiamo parlato di ambiente religioso, lei nel suo libro cita tanti bolzanini, trentini, italiani in genere, però cita anche un patriarca di Venezia. Come mai? Perché è una cosa particolare. Il patriarca di Venezia è proprio il tipico esempio, non lui, per quanto ci sia qualche cosa di popolare nella figura di quello che sarebbe stato Papa Giovanni, no? Ma è per me la figura del provinciale, che solo essere stato a fianco 2 minuti di un cardinale, era il 57, che sarebbe diventato Papa, mi ha fatto estremamente commuovere, ecco, e forse avevo anche fatto bene a commuovermi, perché era una commozione che valeva la pena di essere vissuta. Perché quel giorno io ero all'ufficio stampa delle vacanze musicali del Conservatorio Benedetto Marcello, e in quel giorno c'erano a Cortina d'Ampezzo i funerali della figlia del direttore, che era ricoverata per un tumore inguaribile. E quindi Fasano viene, non dico come mi ha chiamato, no? Era napoletano, dice: Darda, tu vai con Risboli a prendere il cardinale alla gondola e l'accompagnate davanti alla tomba di Giovanni Gabrieli, di cui ricorre il quarto centenario della nascita, era il 1957. E così abbiamo fatto, e questo episodio, io mi ricordo, cioè, la frase non me la ricordo, ma ha fatto due parole di estrema umiltà, come dire: io non conto niente, Giovanni Gabrieli ha fatto della musica. Questo ve lo assicuro che l'ho sentito io veramente, e quindi questo è anche un gesto molto commovente per un credente, per un non credente, eccetera, perché la figura di Papa Roncalli è, diciamo, al di sopra delle parti, no? C'è proprio una lettera di Sergio Romano oggi su Papa Roncalli e i comunisti sul Corriere della Sera di oggi o di ieri, no? E quindi io non porto, faccio il tifo per nessuno, ma comunque questo mi ha commosso, ecco, come mi ha commosso Montanari, che col bastone, non avevo mai visto col bastone, mi accompagna alla porta e mi saluta con la stessa gentilezza, con lo stesso affetto. Ecco, quindi ci sa quello che ho avuto da Montanari, però, no? È evidente. Allora mi dica, facciamo adesso uno stacco musicale. Ecco, lo stacco musicale mi fa spiegare un'altra figura di grande musicologo, ma che non c'entra niente con Bolzano, se non quando è venuto una o due volte in commissione per dare i punti a candidati di insegnamento di storia della musica, cioè Federico Mompelio. Perché l'ho messo come primo? Perché è stato il maestro con cui mi sono diplomato all'università, insomma, ho fatto la tesi con lui. Questi due ricercari per liuto li ho trascritti non sotto la sua guida, perché a un certo punto ci si arrangiava, però con la sua approvazione, e li ho trascritti per tre violoncelli. Adesso vediamo l'effetto. Ricercari vuol dire cercare. Agli inizi del Cinquecento voleva dire cercare qualche cosa che risponda alle esigenze, alle capacità dello strumento. Se può fare una scala, se invece può fare un arpeggio, se può fare solo una nota e basta, e così via. Dopo, via via, nel corso del secolo, ricercare significa invece ricercare lo sviluppo di motivi, che saranno quelli che la chiave che porterà allo sviluppo della forma della fuga. Che sarà quella che presto faranno loro quando si saranno stufati di noi, di me, non di loro, di me. E quindi ricercare, il primo direi che è ancora orientato verso la prima metà, i primi decenni del Cinquecento, di Giovanni Maria da Crema. Il secondo, di Antonio Segni, che io in un gesto vedete che ho detto Antonio, anche oggi ci sono cascato, perché una volta, parlando con un maestro, dice: lei cosa sta facendo? Io sto facendo degli studi sui ricercari di Antonio Segni e di Albino Cavazzani. Ora, voi che siete di Bolzano sapete che Albino Cavazzani era il proprietario dell'Alto Adige, no? E Antonio Segni era l'allora Presidente della Repubblica. Una papera, mi pare che c'è dentro anche nel libro, perché c'è un capitolo dedicato agli errori grossolani, ma... Io mi permettevo in classe di sghignazzare anche quando uno sbagliava, però prima gli raccontavo una che avevo fatto io, per esempio, no? E allora eravamo pari, perché quando c'è una cosa divertente, che uno dopo una domanda gli dici parlami di violinisti del Cinquecento, e questo qui dice Cazzoni, no, dico, guarda, c'è Cavazzoni, Cassati e Caccini, ma di Cazzoni non c'è nessuno, se non siamo noi, dico. Chiedo scusa della licenza. Ecco. Spingo il microfono così. Prego, sì. Ecco, qui. Abbiamo parlato della prima parte. Nella seconda parte di questo saggio si parla di parecchie istituzioni culturali, musicali, da Bolzano a Trento a Rovereto arriva. Nella terza parte invece abbiamo una raccolta di scritti definiti seri e faceti, arguti, ironici, che trattano vari argomenti. Questi, come forse aveva detto il professore, sono in parte già presenti in libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni. Si va dalle note su Mozart a Beethoven a citazioni ironiche del Marzemino, per non parlare anche del karaoke. Diciamo, tutti i temi vengono sfruttati dal maestro per parlare comunque di musica. E la quarta parte, nella quarta parte abbiamo alcuni aneddoti, episodi divertenti, e leggerei brevissimamente due cose. Bravo. Perché così sono troppo divertenti. Il mio, la mia papera legga anche quella. Ho segnato alcune cose, poi aggiungiamo la sua. Sì, certo, perché quella è bellissima. Dunque, dice il maestro, spiegavo la distinzione fra note e figure. Non bastano le note, ci vogliono anche le figure. E tenete presente che senza figure non si fa la musica, ma con la musica si possono fare certe figure. Quindi, insomma, bisogna anche saperla fare questa musica. A un allievo di solfeggio feci leggere un esercizio a prima vista. L'esito fu soddisfacente e ai miei apprezzamenti mi fece notare che dovevo tuttavia considerarla una lettura a mezza vista, perché il brano l'aveva già studiato un po' a casa. E un altro episodio divertente riguarda il maestro Montanari. In viaggio in automobile per un concerto con il trio di Bolzano, Nunzio Montanari viene fermato dalla polizia. Lei, in contravvenzione, non ha suonato il clacson in prossimità di una curva pericolosa per scarsa visibilità. Il maestro Montanari non discute e paga immediatamente la multa, pur commentando: io che di solito sono pagato per suonare, devo pagare per non aver suonato. Ecco, la cosa bella di questo volume è proprio questo, cioè ci sono episodi visti da tutte, episodi che riguardano la musica visti da tutte le angolazioni, e credo che non siano molte le persone capaci di fare le cose serie, facete, divertenti, saper fare di tutto, perché spesso ci sono magari grandi musicologi, e qui ne abbiamo uno, che scrivono bellissimi libri, però queste cose le snobbano, le considerano stupidaggini, invece fanno parte della vita, e il maestro ci dà una lezione di vita proprio attraverso questi scritti. Certo. E questa è una cosa, credo, veramente, veramente interessante. Una cosa curiosa, lei ha, stava dicendo invece di un suo... lei pensava che io leggessi qualcosa, ma non ricordo. Cardinal Barberini. Prego, allora, perché questo mi... Ah, la devo raccontare io? Sì, perché questo... non era un esame di storia della musica, comunque venivo dalle vacanze musicali, dove peraltro non avevo fatto vacanza, ma lavorato, dico, tento un esame di letteratura poetica e drammatica, è quello per i compositori, no? Che devono fare un esame particolare. E incontro il professore, che era a Piamonte, sul corridoio la mattina, e mi dice: ha fatto l'elenco dei 15 episodi di Dante? Dico, sì, sono andato in segreteria, siccome mi conoscevano, e ho battuto a macchina dei titoli, Conte Ugolino, Manfredi, Pia de Tolomei, quel che mi capitavano. E poi se mi sono presentato è perché ero sicuro che avevo alcuni capitoli in cui ero veramente preparato, no? Quindi dico, se mi va bene, perché purtroppo ancora oggi gli esami di storia della musica, di letteratura, eccetera, si fanno sorteggiando i capitoli di un programma ministeriale che è più vecchio di me di un anno, perché è del 1930 o forse del 31, ecco. E a un certo punto dice: il teatro a Roma, il teatro musicale. E io dico: il teatro musicale è stato favorito dalla famiglia Barberini, dico, Cardinal Barberini, dico, soprattutto. E che fine ha fatto il Cardinal Barberini? Era un vigliacco, però, no? Io che ne so, io faccio dei gesti di dubbio, e lui faceva segno che c'era pochi dubbi, perché dopo 400 anni di sicuro qualche cosa gli era successo, no? Allora ho fatto di sconforto, ma nei miei confronti, di me stesso, come dire, insomma, mi dispiace ma non lo so. Ma forse lei intende dire che ha fatto una brutta fine? Sì, dico, perché sarà morto di sicuro. Beh, dice, se le sembra che abbia fatto una brutta fine uno che è diventato papa, ecco, questa è una lezione di morte, non di vita, perché è la morte culturale, no? E comunque anche di questo si fa, come per esempio ho litigato con un allievo che diceva, sempre parlando dei Barberini, che le prime opere romane erano presentate in un teatro, Barberini, il teatro Barberini, annesso al Palazzo Barberini, capace di 3.000 posti, e ho litigato con uno, con un allievo, dice, non è possibile, lei si sbaglia, ma dico, c'è scritto nel libro, sì, dice, ma il libro è scritto in cifre e poi è scappato uno zero in più, perché dice è impossibile un teatro che tenga 3.000 persone, e invece era un baraccone annesso in cui andava un sacco di gente a sentire queste opere, che stranamente le prime opere buffe nascono a Roma. È strano, no? Dopo il grande sviluppo è Venezia, ma nella prima metà del Seicento le prime opere buffe sono a Roma. E anche in opere serie come il Sant'Alessio di Stefano Landi ci sono delle comparse, per esempio il diavolo, che lì compare a quello che sarebbe diventato poi il santo Alessio, lì compare travestito da orso, e quindi è un'opera seria, agiografica addirittura, in cui c'è il personaggio buffo. E quindi questa storia del 3.000 era che si portavano le panche la gente e dicevano: il cardinale ci lascia venire a sentire l'opera che ha fatto scrivere per sé, per la sua corte. E lì ci si assepavano in questo hangar, addirittura lo descrive mi pare Mario Baroni in un libro di storia della musica. Era un hangar, che loro sanno benissimo cos'è un hangar oggi, è un magazzino enorme in cui si porta dentro un aereo, anche dei voli transoceanici eccetera, transcontinentali. Ecco, qui abbiamo finito anche questo. Io a questo punto approfitterei, siccome i personaggi sono tanti, la storia è lunga, io concluderei con mostrando 5-6 foto che commento brevemente, e poi chiuderei in bellezza con l'ultimo brano del trio per violoncelli. Un attimo solo, che io, se a Dio piacendo, come diceva il coso, tanti personaggi, se a Dio piacendo ci sarò ancora la prossima stagione, vengo a fare anch'io come componente di una tavola rotonda quadrata. Sarà difficile trovare la figura geometrica sulla storia del conservatorio di Bolzano, perché qualche cosa ho da dire anche dal punto di vista storico. Ecco, come dico, se la dottoressa Trevisano è d'accordo, faremo alcune fotocopie degli annali, che sono poi 4-5 pagine, con tutte le date relative allo sviluppo della storia del conservatorio dal 1940 al 1990. Allora, abbiamo 5-6 immagini, possiamo mettere la terza che vedi in basso? Che non vedo, ma non la vedi sullo schermo? No. Ah, perché non hai, scusa, pensavo che avessi, sì, quella lì. La successiva? No, quella precedente. Sì, ma quella. Guarda, è uguale, tanto. Allora, il maestro Dardo con il maestro Dionisi. Quindi foto storica e si commenta da sola. Posso, vengo io lì magari e così ti... Non ci vedi perché... Sì. No, sto pensando di mettere N due volte, non riesco. E allora guarda, andiamo liberamente, così il maestro stesso... Così tanto...